La guerra vista con gli occhi di un bambino, paura, gioco, crescita, è il sentiero dove tutto si perde e si ritrova. I sentieri dei nidi di ragno, il romanzo resistenziale di Italo Calvino, che consegna a noi lettori l'esperienza della lotta partigiana tramite uno sguardo innocente e straniante, di cui ci darà la sua opinione Giuseppe Tassone. Il sentiero dei nidi di ragno è un romanzo pubblicato nel 1947 da Italo Calvino ed è considerato uno dei capisaldi della letteratura sulla resistenza italiana. Invece di narrare la guerra in modo epico o celebrativo, Calvino adotta il punto di vista di un bambino, filtrando i tragici eventi attraverso una lente fiabesca e spesso grottesca. Il protagonista è Pin, un bambino orfano e ribelle che vive in un borgo della Riviera Ligure durante l'occupazione tedesca. Pin è isolato, non si trova bene con i coetanei e passa il tempo all'osteria con gli adulti, che lo prendono in giro e lo usano come intrattenimento. La storia si mette in moto quando Pin, per sfida, ruba la pistola a un marinaio tedesco, amante di sua sorella. Dopo aver nascosto l'arma nel suo luogo segreto, dove appunto i ragni fanno il nido, Pin viene arrestato. Riesce a fuggire dal carcere insieme a Cugino, un partigiano solitario e silenzioso, che lo conduce in un distaccamento di partigiani in montagna. Il romanzo non descrive eroi senza macchia, ma un'umanità complessa e spesso sporca. Pin finisce in un gruppo di partigiani strampalati, reietti ed emarginati. Calvino li osserva con occhio critico, ma profondamente umano. Cerca un mondo di adulti in cui integrarsi, ma ne vede solo le miserie, la violenza e il sesso, che non comprende appieno e da cui è disgustato. Il nido di ragno rappresenta l'infanzia e il segreto. È l'unico posto dove Pin si sente potente e sicuro, ma la guerra finirà per violare anche quel rifugio. Nel celebre capitolo 9, il commissario politico Kim spiega che nonostante i difetti dei singoli, la lotta partigiana ha un valore morale immenso perché è fatta da chi ha scelto di stare dalla parte giusta della storia, dal lato del riscatto. Questo libro mi ha insegnato che dietro la cattiveria e l'aggressività spesso si nasconde un profondo bisogno di essere visti e accettati. La vera amicizia è l'unica medicina contro la violenza del mondo.